Radio 24 Reportage. Il Museo Vedova non vuole dunque essere un mausoleo, così come Punta della Dogana. Il nuovo spazio dedicato all'arte contemporanea, a cui ha dato vita il magnate francese della moda François Pinault, già patron di Palazzo Grassi. A Punta della Dogana sono esposti i pezzi più pregiati della sua collezione d'arte contemporanea. Per il restauro della ex dogana è stato coinvolto un altro mago dell'architettura, il giapponese Tadao Ando. Ma il Palazzo Grassi è molto molto biscanto, si dedica tanto, scherzo. Nel caso di Palazzo Grassi, sin dall'inizio era già un museo che aveva un suo allestimento, una sua ricostruzione che era stato restato in un determinato modo, e quindi lavorare su quello è stato necessario, togliere quello che era stato creato dagli architetti precedenti e riportare l'edificio a quella che era la sua, il suo valore originale. Nel caso invece di questa progettazione si tratta di un edificio del XV secolo in cui era necessario appunto valorizzare questo edificio, nello stesso tempo però portarla verso il futuro, creare un'architettura del XX secolo, un'architettura moderna e soprattutto riuscire a lavorare con le maestranze italiane in modo da realizzare qualcosa che nasce dall'interazione tra un architetto giapponese, tra il gruppo giapponese e il gruppo italiano, e si è pensato di utilizzare materiali del XX secolo, materiali nuovi, innovativi, che sono appunto il cemento, il vetro, il metallo, eccetera, per dare nuovo valore a questo all'interno di un edificio che però è antico e creare quindi un ponte tra quello che è il passato e il presente e il futuro. Da questo scontro, in questo incontro delle diverse materiali, si è cercato di realizzare una architettura che viva anche nel futuro. Quanto è stimolante e quali difficoltà invece trova un architetto giapponese a lavorare in Italia? Nell'architettura contemporanea si tende a progettare tutto man mano, sempre di più con il computer. Sia nel caso del Giappone che nel caso dell'Italia ci sono delle maestranze, degli artigiani che hanno ancora una manualità, che hanno una grande conoscenza dei materiali, delle tecniche, delle produzioni, e l'architettura deve cercare di far valorizzare queste capacità, queste dotti che ci sono appunto in Italia e anche in Giappone, e la interazione, la possibilità di far intravenire all'interno dell'architettura, che pure è architettura industriale, dei particolari di manualità, delle capacità, delle maestranze sia artigianali sia italiane che giapponesi, questo è uno dei nostri compiti. E l'architettura comunque è un problema appunto di comunicazione dell'animo, della mente, del cuore tra l'architetto e le maestranze. In questo caso si è utilizzato il cemento, che dovrebbe essere una sorta di pietra o marmo del XX secolo, e per realizzare questo bisogna che il cemento sia lavorato con una determinata tecnica. Io ho apprezzato molto, sono stato molto sorpreso delle capacità tecniche delle maestranze italiane che sono riuscite a ottenere dal cemento questi risultati che degnamente corrispondono a quella di un marmo del XX secolo. Orgoglioso del recupero di Punta della Dogana, il sindaco di Venezia Massimo Cacciari. Un'opera di architettura nuova, perfettamente rispettosa dell'architettura antica, come si può vedere. Un recupero straordinario, tra l'altro anche strutturale, di tutte le fondamenta che finalmente ritorneranno ad essere questa passeggiata la più bella di Venezia. E tutto questo grazie all'intervento di un privato, perché ormai il pubblico soldi per opere di questo genere non ne ha più. Aver recuperato uno spazio che era a pezzi, che era con dentro un po' di magazzini di carta straccia, e trasformarlo così, insomma, senza che lo Stato, senza che il pubblico abbia tirato fuori una lira, insomma, non è poca cosa, mi pare. Bisogna che diventi produzione culturale, non soltanto esibizione, e opere di questo genere forse ci permettono di farlo con più energia. All'interno di Punta della Dogana è allestita una mostra intitolata Mapping the Studio, curata dall'americana Alison Gingeras e dall'italiano Francesco Bonami, per il quale Venezia è diventata uno dei poli della ricerca contemporanea in Italia. E attraverso le grandi finestre di Punta della Dogana le opere dialogheranno con l'esterno mirabolante, ha detto. A troneggiare sulla punta tra il Canal Grande e il Canale della Giudecca è una scultura installazione dell'artista californiano Charles Ray, il ragazzo con la rana. Sentiamo Francesco Bonami. Charles Ray è un artista californiano Milano, a cui François Pinault ha commissionato di pensare una scultura per la punta della dogana, e lui ha pensato a qualcosa proprio che ha a che fare con la città, con il rapporto con lo spazio di Venezia, con l'acqua, ma anche con lo spazio mentale che Venezia ci offre, e ha creato questo giovane di 13-14 anni, quindi un giovane che entra nell'adolescenza, nudo, che tiene in mano, col braccio destro, tiene in mano una rana che potrebbe aver trovato nelle acque di Venezia oppure nelle acque anche del Mississippi. Questa è la grandezza di Charles Reyes, che ci porta le acque dell'America qui nel Gran Canale, nel Canale Giudecca, e quindi è questo segno di meraviglia, credo che sia un simbolo di meraviglia verso la novità, e l'arte contemporanea è novità, e davanti alla quale dobbiamo diventare un po' adolescenti. Diverso il commento del sindaco di Venezia Massimo Cacciari a questo proposito. Credo che con Venezia c'entri poco, francamente. Mi pare che sia un po' una presa in giro di Tobia, non so, una cosa ironica, come tre quarti dell'arte contemporanea. Sono cose che ironizzano sul passato, ironizzano sugli stilemi passati. Questa è anche la sua forza, no? Cattelan, tanti altri. Sono lavori sull'ironia, sono lavori sulla ironia o sulla parodia, che recuperano stilemi passati e li trasformano, li lavorano, li elaborano. Quindi niente di, non mi pare niente di eccezionale né in un senso né nell'altro. Me le auguro. Per Francesco Bonami la rana è una sorta di filo conduttore. Secondo me il filo conduttore alla fine di tutta l'arte è proprio come quella ranocchia che sta lì, è questa, è estremamente semplice, è questa recuperare una meraviglia davanti alle cose che non conosciamo. L'arte contemporanea è la cosa che non conosciamo, è l'oggetto, che noi, l'opera d'arte che noi troviamo, di cui sappiamo poco e che appunto chiedono di spiegarla, però se uno la spiega troppo dicono che è spiegata troppo, se uno la spiega poco dicono che l'arte contemporanea non si capisce. Ma l'arte contemporanea si deve sentire, come le opere d'arte. François Pinault ha questa passione verso le opere d'arte istintiva, visuale, non concettuale, e credo che il filo rosso sia questo: la passione e l'amore per questa, l'idea della creazione artistica, l'idea che può essere semplicissima o complessissima come tutte le cose che l'essere umano fa. Questo è merito veramente della passione sia del sindaco di Venezia Massimo Cacciari, che ha veramente creduto nel futuro. Credo che sia il simbolo della passione di un francese, non di un italiano, che ha creduto non soltanto in Venezia ma ha creduto nel futuro. Io credo che sia importante sottolineare che noi stiamo parlando di due personaggi, Massimo Cacciari e François Pinault, che non sono certo dei ragazzini, hanno una certa età tutte e due, e che capiscono che non è l'investimento, non si deve fare su di noi, non si deve fare nel momento in cui noi viviamo. L'investimento è qualcosa per i tempi in cui non ci saremo, e quindi credo che questo sia un segno eccezionale, perché grande piacere adesso, ma speriamo anche grande piacere nel futuro per quelli che verranno e che non ricorderanno i nomi ma vedranno le cose che sono state fatte. Questa è proprio l'adolescenza nuova di Venezia, una città antica, una città che spesso viene considerata una città morta, invece una città che oggi, credo con la punta della Dogana, con la Biennale di Venezia, con tutto quello che succede a Venezia, dimostra di essere una città estremamente viva, che guarda al futuro e porta il passato nel futuro. Se noi abbiamo Venezia oggi è perché quando hanno fatto Venezia la gente pensava in modo contemporaneo, ha investito in qualcosa che sarebbe restato per sempre, e questa è la speranza, che queste cose rimangano, forse non per sempre ma per tantissimo tempo, che rimangano al di là dei nomi, al di là delle fotografie, al di là dei titoli delle prime pagine dei giornali, che rimangano come un capitale della città, un capitale delle nuove generazioni, un capitale dell'umanità, che come in fondo è diventata Venezia. E se la Peggy Guggenheim Collection offre in questo periodo a chi ama l'espressionismo astratto un'imperdibile rassegna di opere dell'artista statunitense Robert Rauschenberg, c'è grande attesa per la prossima inaugurazione del nuovo auditorium della Fondazione Querini Stampaglia, progettato dall'architetto svizzero Mario Botta. Ma l'effetto Venezia è amplificato ancor più dalla 53esima edizione della Biennale d'Arte, in programma fino al 22 novembre. Fare mondi, Making Words, questo il titolo dell'edizione 2009 curata dal direttore Daniel Birnbaum, è attualmente la rassegna d'arte più visitata dell'anno nel nostro paese. Il presidente della Biennale di Venezia, Paolo Baratta, al microfono di Silva Menetto. Le cose importanti sono, secondo me, questa grande capacità di rappresentazione, di apertura della Biennale verso le ricerche, le considerazioni, le riflessioni sull'arte italiana e non solo italiana, il mettere in parallelo le storie fa sempre molto bene all'intelletto e all'intelligenza per capirle meglio. Con i suoi oltre 1.900 visitatori al giorno, la 53esima Biennale d'Arte di Venezia registra un incremento dell'8% rispetto all'ultima edizione curata da Robert Storr, che venne già considerata da record con i suoi 320.000 visitatori complessivi. Un'opera d'arte è una visione del mondo e, se presa seriamente, può essere vista come un modo di fare mondi, dice Daniel Birnbaum. Making art can mean so many different things, and we got this fare mondi, making worlds, Welten machen, translated into all the languages involved, basically. Prendendo il fare mondi come punto di partenza, ci permette anche di evidenziare la fondamentale importanza di alcuni artisti chiave per la creatività delle generazioni successive, dice ancora Birnbaum. E per i visitatori della Biennale, alle tese delle Vergini dell'Arsenale, è stato allestito anche il nuovo Padiglione Italia, curato da Beatrice Buscaroli e da Luca Beatrice, dove espone anche l'artista piemontese Valerio Berruti. Noto per i suoi disegni trasformati in video animazioni, Berruti è il più giovane degli artisti invitati a Padiglione Italia. È da 2 anni che sto spostando la mia ricerca, oltre al disegno da cui sono partito, verso i vari media, tra cui il video, l'animazione, la scultura, adesso i bassorilievi, perché penso che siano dei mezzi per dire delle cose, quindi non penso che sia una buona cosa limitarsi a un media solo. Penso che sia interessante poter sfruttare tutto ciò che si possa utilizzare. Ultimamente sto sempre più cercando di portare la pittura o le installazioni su un piano poetico, perché penso che la poesia sia l'unica vera cosa che ci salverà. E quindi mi piace evocare poesia e partire dalla poesia, quindi i miei lavori sono compenetrati dal titolo, che ne dà un aspetto più intellettuale rispetto a quello che può essere semplicemente la forma estetica. Ed è tutto per questo reportage dedicato all'arte contemporanea, in particolare a Venezia. Un saluto da Adriana Fracchia.